ad ogni domanda rimango senza risposta, ammutolita dalla paura di esprimere, aprire il proprio essere e il proprio insegnamento, rimanendo ingiudicabile da individui che non hanno mai esplorato il mio mondo e il mio appartenere. Come un quadro astratto, non lo sai cosa rappresento, lo puoi solo interpretare, ma a modo tuo. Come un quadro astratto, non lo sai cosa rappresento, lo puoi solo interpretare, ma a modo tuo.